Marco, alla prossima! Quel segnalone, quando si è agganciato. Il booster ci vuole, il booster, quello per spunto, quello bello, c'è anche io, ce l'ho, anche da compressore, da fila, insomma c'è un po' di roba. Il coso, ci segna il portaggio della batteria, vabbè, però quello è un po' grosso, come booster. Io invece ce n'ho uno piccolo, che mette in moto tutto, anche il camion. No, ma... allora, quando ce l'ho anche io, quando piccolino, quelli sono pericolosi per alcuni tipi di veicoli, capisci? Una volta, quando non c'era elettronica, usavi qualsiasi batteria, qualsiasi attrezzo e partivi. Adesso ci sono dei veicoli che hanno delle centraline, che bisogna sapere come attaccare il cavo. Se tu attacchi normalmente il cavo, stai dando in altri, capisci? Infatti a me mi hanno detto, tu non attaccare il cavo a nessuno questa volta. Se hai il booster, però quello, come ho detto prima, particolare, che serve a disincentivare il cavo elettrico, è un booster che non danneggia le centraline, mentre invece quelli normali sono semplici caricabatterie. Come quello che ho io, che non fa danno. Sai cosa? 320 euro. E infatti costano molto, quindi. Quelle buone costano molto, capisci? Io comunque ci ho provato anche a far fare fattura una macchina, ma so come fare perché il viaggio è molto veloce, perché se lo lasci qualche minuto, le servizi, i capi, ti surriscaldano la centralina, le centraline qui che hanno un bene, ma un bene, se prendi già. 1200 euro quella della Opel costava, 1200 euro, allora, meno male che la mia non era partita, ma... era solo un filo che era staccato, perché sennò la dovevo cambiare. E vabbè. E cosa non me? Infatti molti le fanno rigenerare. Non so se devo rigenerare. Questa è una Toyota. Se bruciano queste centrali è meglio riuscire per la macchina. Qui ce n'è una a carica che lo fa, che fa quel lavoro lì, solo centralini. Anche qua a Forlottore c'è un mio amico che fa le centraline, moto, macchine, di tutto, furgoni, camper. Comunque, scusate, riprendo io, Gianni e Luca l'ha riparata l'antenna, ho visto che prima l'avevi chiesto, dovrebbe essere in ascolto, Luca. K presente. Che non mi ha risposto, poco fa, deve essere si è allontanato. Vabbè Luca, stai arrivando bene adesso, il segnale è tuo lo stesso. Eh sì, magari mi ero avvicinato al frigorifero a vedere cosa ne pensava. Sì, l'ho rimessa su, l'ho fatta saldare in azienda e niente, l'ho ripiazzata stasera stesso. Dai, però male che il risotto in fretta, interessante quello. Però devi comprarne un altro. Ah io, aspetta, Baracchini, che sennò non vi faccio palla con un muro. Luca, ma tu eri stamattina? Ero io, Tore. Ciao Eugenio, ancora, niente con la roba là, Adesso detto che mi faceva sapere Luigi, che ti dava un'occhiatina a lui. So dovrei chiedere a un amico se che mai sarà anche nascosto qua, se ti fa il favore. Così vedo un po' cos'è il problema. Perché ho visto che accenne però da quel problema di... comunque ciao a tutti, scusate se sono entrato così con lo sgambetto. come si dice? Se te lo fa lui, adesso vediamo, però ho visto che accende e c'è questo QRM. Vabbè, non c'è problema, ma ce l'ha Gigi o ce l'hai ancora tu? No, ce l'ho io, Gigi. Ma mi ascolti, sì? Certo che ti ascolto, ti sto rispondendo. Vabbè, non ti preoccupare, dallo a tuo fratello. Lo fa avere in officina da lui. Allora io a tuo fratello, non c'è problema, non ti preoccupare. E grazie lo stesso. Ah, come vuoi, dai, va benissimo. Appena tanto devi venire a portarmi la roba, glielo do, dai, va bene, oggi. Ah, grazie, va, grazie. E io parlate, dite con poche parole, Tore, ripeto. Vado a riprendere io. Sì. Bisogna fare così, bisogna fare. Fa con te, li faccia con te. Facciamo, non c'è gusto. Bisogna far girare l'economia. Perché non mi avevi riconosciuto, Tore? Sì, no, io ti avevo riconosciuto, Paolo. ha detto che la prima base è un altro luogo, la base è in Cipri. Sì, da Van Alison, no? E vai giù da Guano. E faccio l'autista lì adesso. Ah, sì. Ringrazio un po' Gareto. No, io devo stare attento per il diabete, giammai, la stessa di mia mamma, la diabetica. Poi con mio fratello, quello grande, diabetico, l'altro piloto è diabetico, e insomma, la cosa un po'. Sai com'è? Comunque la glicemia me l'ho misurata quando? 2 settimane fa, mi sa, 2 o 3 settimane fa circa. Perché molte volte ho paura, era 89. Ma sai come faccio io per non farla sollevare? Bere molta ma molta acqua. Sì, ma ce la bevo l'acqua, lasci. 7 metri. No, conviene sempre bere 2 litri d'acqua al giorno, se no di più. Però prenderti la glicemia. Di birra, anche il dottore Luigi. Dai 2 o 3 litri di birra ogni giorno. Ma prima ero vazia, a mai invece gli accettate così quando andando. Luca, quando c'è col furgone consegnato, passa sotto casa, una dozzina va a essere. Una dozzina di che cosa? Basta. Cioè, se tu chiami, io te le porto a casa. Ma che sto scherzando, ma se non li posso mangiare io. Ma che non li puoi mangiare, non li puoi mangiare, è diverso. Ah, ma non si vede la guardia giurata. Comunque anche qua Luca arriva bene, avanti Luca. Sto facendo grandi pulizie, oggi sto eliminando cavi inutili da questa scrivania. Sì, dovrei arrivare meglio adesso con l'antenna intera, perché prima avevo l'antenna da 6,20 metri e poi di colpo avevo 2 antenne, una da 2 metri e una da 4,20 coricata sul tetto. Qua c'è il 9,25 a casa. Ma scusate un attimo, ma come fate a darvi i controlli se di uno attacca dall'altro? No, non siamo un attacco all'altro, lui è via l'Italia, io gioco a tutta la sua base di azienda, che lo sai dove abito. Vabbè, ma cosa cambia, sempre la stessa, sempre città, nella stessa città, quindi arrivate forti tutti quanti, uno con l'altro. Vabbè, io per produttore sono un po' negativo, Uge. Vedi, Uge, tu lo sai le cose, lui si è troncata l'antenna, prima arrivava molto più basso, per quello gli ho dato il controllo. No, lui non ha problemi, dalle mie parti non ha problemi, perché ha un segnale forte, arrivi 9 di brutto. Sì, aspetta, guarda adesso, sono sganciato, 100 watt, 80 watt e 9 sotto. Sì, vabbè, noi si è cambiato di molto, si è a 7, eri a 9, si è sceso a 7. Vabbè, tu a me arrivi 5 qua, segnale 5, radio 4. Va bene, dai, già riusciamo, poi ovviamente se hai un po' di QRM, visto che lì in zona, ci sono un po' di QRM, poi non, quei segnali bassi non li senti, capito? Ma c'era anche, adesso non mi ricordo il nome, abita al monte, coso, avanti, non mi ricordo il nome, avanti. Guarda, abita al monte. Bruno, ragazzi, avanti, a te sta dicendo, vinto, tu lì. Io non sono più montagnino, ho portato con 60 anni, adesso ho visto quello che passa. Ho visto. E ho fatto manovrando, io sono in macchina purtroppo. Da qualcuno che si è fatto. Mi che non venga babavuto da lì dove. Avanti casa. Vabbè Luchino, ogni tanto ci si risente, come va? Ehi, ciao Carlo, ehi, come va? va, si lavora Carlo, dai. No, ho cambiato lavoro e questo qua già va meglio, dai. L'orario proprio è più che ottimo. Sennò prima, anche se faccio quelle 4 ore, però l'orario mi rovinava tutto, ecco. Io a quest'ora, non dico a quest'ora, sono le 7:30, alle 8:30, massimo 9 l'ho già addormentato, perché poi mi devo alzare alle 3, anche se 3:30, anche se entravo alle 5:20, però devo avere il tempo di cambiarmi, lavarmi, insomma, fare tutte le mie cose, colazione e quant'altro. Capa, non me lo dire a me che io mi alzo quando ho le mattine alle 4, mi sono alla sveglia e alle 5 sono già all'aeroporto, capito? Quindi tempo di alzarti, lavarti, vestirti e uscire, capito? E io sono praticamente 20 anni e passa che lavoro lì e prima ho lavorato altri quasi 10 anni a fare i turni e lavoravo al centro elaborazione dati al Banco di Sardegna. è una vita che faccio i turni, non ne posso più, altri 5 anni me ne vado in pensione, spero. Udretta Zincani, bisogna diminuire i quattro, ragazzi. Eccomi qua, sono tornato. Io che ero... Allora, me lo sapete tre. Quindi, cosa volete di più? Ora me la seguo spassendo. Giusto? Giusto, attore, giusto. Vai Claudio che sei rientrato. Sì, scusate che stavo memorizzando la radio, mi stavo facendo uscire fuori in testa. Ma ci ho terminato. Ok, perfetto. Va bene, e anche io ho fatto i turni, non sono umile, non sono umile, facevo 6-2, 2-10, 10-6, e la notte è fatta per dormire a coscia di donna, e invece sempre a Lombardo a Rodaurino, vabbè, purtroppo è così, ognuno il suo, Eugenio già, non è dei migliori, qui si alza molto presto la mattina, alle intemperie, il vento e di butto biglia, quindi. Ok, quindi il cambio per Eugenio, mi stai ascoltando bene? Sì. A voglia, come sempre, ecco, come sempre. Non so cosa hai fatto, però come sempre, qua non è cambiato niente. Limpido, perfetto, anzi, lavoro di prepotente, come se vi hai no. Buttateci tutto! Ciao Bruno, ciao anche a Gianni Rubaffetta, non ho fatto niente, io sto usando il 140 con l'MC60, lo stavo memorizzando perché l'avevo resettato e quindi ho rimesso le memorie come erano, tutto a posto, tutto ok. Allora il cambio per l'ultimo entrato, Gianni Rubaffetta viene avanti, Claudio Sparviero da Sassari, collinetta di Osio, cambio. Coviato, Sparviero, qua coordinato Rubaffetta, stazione ferroviaria di Sassari, vabbè, a parte le cazzate, niente, dai, non so chi ci sia, non so chi c'è in ruota, e comunque salutoni circolari a tutti, dai, avanti a chi tocca. Rubaffè, ma stai usando sempre l'apparato che avevo dato io? Ciao Eugenio, negativo, no, quello l'ho fermato perché lo devo sistemare. Ah, ho capito, va bene, comunque questo è un problema delle mie parti. Bene, Meda, avanti a chi tocca. A me come saluta, qualcuno. Ciao, va Giovanni. Ciao Luca Rie, non ti avevo sentito, come faccio a salutarti? Sei cuocuomane, sì, sei sempre drogato, ho fatto, tutto ho fatto, ho perso. Ma quello non mi hai sentito. E lo puoi dire forte, sono diventato cuocuomane da un po' di anni a questa parte. Mi sto rincoglionendo, preferivo lavorare, guarda, per carità. Non sai più come ti ammazzare un tempo, ma come io a mangio gente da macchia, cosetta o a me o qualche amico, se no, Allora, qua ci vuole un capomaglia, vedi Gianni, ti stavi lamentando, ma c'è mai nessuno, non ha più compreso una mazza. Riprendi tu e fai girare, dai. Gianni doppio rum, eh. Ah, calma. No, questa cosa mi chiede un Bruffetta. Ciao Gianni Bruffetta, che non me l'ha dato il macchio per salutarti. Mi sembra che tocchi a Bruno, poi fa girare per Carlo, dai, avanti Bruno. Ok, ancora adesso, chiude forte, Claudio sei una bomba. Se più in attesa mi prenda. Ci è andato sotto casa sua, lui. No, non sono un po' più basso. E anche tu Bruce stai arrivando fortissimo, più di 9, radio Super 5 già va bene. Allora faccio girare io, dai Carlo riprendi, poi vai per Marco, se Marco non riprende, mi dovete dire chi c'è, in modo che facciamo un giro completo, vai Carlo. Perfetto, ne approfitto e saluto Gianni alla stazione, sempre segnalone qua, e niente, quindi abbiamo due Gianni e due Luca, vai Luca, Viale Italia. Luca stazione Floppy da Viale Italia vi saluta a tutti, passa in QRT e va a fare assistenza alla mamma che gli prepara la cena. Buona serata a tutti, ciao ragazzi. Ciao Luca, ciao, ti fa onore. Ciao Luca, ciao, un abbraccio, già ci sentiamo per telefono. Ciao Luca, buonasera e ci sentiamo. Ciao Luca. Senti Gianni, sei un impiegato, Bru, passa la voce, se non ti sento bene. E niente, dai, che ne sono, se sarà quasi ora di andare, se non alle 7:30, no, che ne sono, alle 7:20, dai, ancora un po' c'è, e ancora drummi tutta, già mi sveglia lui. E niente, che dire, c'era anche Marco, però ha chiuso adesso, ha chiuso, passiamo a Gianni Lubrofetta, tu fai girare. Eia. Ciao Luca, ben ascoltato, si sente, alle prossime. Poi c'è Luca Cuocoma, non so se è ancora qua. Ti ho visto l'altro giorno, un paio di settimane fa, in furgone, viaggiando, camminando forte. E va bene, dai, eri troppo veloce per essere salutato, comunque dai. Ti saluto adesso. E va bene così, dai. Ma a quanto pare si dice che qualche altra raffica di vento dovrebbe arrivare. Non so voi come siete messi a livello di meteo, ma si dice che dovrebbe arrivare un'altra costurata. Chi è il comandante del porto? Eugenio. Per questione di meteo, ragazzi, chiedete pure a me. Anche domani sono saltate le navi e anche domani entrano. Per il brutto tempo e per il troppo vento. Hai sentito, Rubrofè, al comandante cosa ha detto? A gran fedevi. Sì, vabbè. Abbiamo praticamente la fonte ufficiale del meteo, la Papatango. Oh, yeah. Va bene, dai. Avanti, Cuocoma e Luca, boh. On the night. Ammazza che ti ne varia. Oh, scusa un attimo, già, ma l'antenna è cambiato, no? È sempre la stessa. Sempre la boomerang, l'altro giorno sembrava che stesse facendo traina, tipo traina al tonno, cazzo, era bigiata, sembrava che stesse facendo un cerchio, cazzo. No, già è bella dritta adesso. Andava bene. Perfetto, cambio! Così è. Io sto andando con 20 watt, 40, 45 modulati, vai, va bene così. Lavorato a caldo, questo è 140, è sempre la potenza a caldo, poi si stabilizza da sola. Questa ce l'avevo, la stavo controllando, l'ho resettata, adesso l'ho rimemorizzata, tutto è messo a posto. Ok, hai visto quello spostamento del microfono? Ma poi c'è così battacco un microfono, come hai spostato il cavo, vedi, non lo sta più facendo. Avevo un ritorno, scusate, e il filo era troppo attaccato al baracchino. Era troppo attaccata all'apparatura dell'apparato, diciamo, è per quello che magari fischiava. Sì, ma noi Gandumaro ti reggono noi e ci mette nel cavetto, vedrai che quando vedi un cavo già ti domanda l'odoroide, lo rientro, non ti preoccupare. Davanti doppio route. Sì, allora, no, ma adesso è già risolto, adesso lo sentiamo bene, non c'è bisogno più di nulla. Si sente bene, non sta più fischiando. Prima innescava un bel all'inizio, poi aveva calato un po', ma ogni tanto innescava ancora. Adesso l'ho eliminato proprio, non c'è più nulla, no? Non si sente più niente. Luca, manicomio. Ma Luca deve essersi allontanato. Carlo, riprendi tu. Claudio, domani me lo controllo quello se c'è acqua sul BL fuori, perché devo abbassarla un pochettino adesso e non la giugana. Molto probabilmente può essere sì una cosa del genere, perché Eugenio mi riceve con picchi negativi, capito? Però è importante sentirci, è già per me qualcosa se arrivo anche a Porto Torres. Anna Benemeda, riprendi Tore. Ehi, da buoni dentro, ma sono qui, ti ascoltavo, e va bene. Oh, signor Gianni Profetta, buonasera. Buonasera a lei, ben ascoltato, voce prepotente, radio fotonica, come ti si dice, tutti forti siamo qua. Sì, un po' careduci, ma va bene così. No, non è colpa mia, Io ho detto al capomaglia che c'era e non mi ha saputo rispondere, quindi io mi sono allontanato perché stavo facendo questa questa cosa alla radio, ho dovuto abbassare il volume, quindi non vi ho sentito chi è entrato e chi è uscito. Capito, mi albero bene. Già ti ho capito, sì. Chiedo Luca, non ha compreso. Gianni, vuol più lungo, sta diventando anziano, non si ricorda più. Un attimino, rientro subito. No, mi sono allontanato un attimo, lo stavo facendo roba, adesso mi devo vestire e lo posso giudicare. Mi sono allontanato, non era la radio, dai, mi sono allontanato un attimo. Ehi, Eugenio, adesso mi sembra di aver capito, si è allontanato un attimo, rientra subito. Quindi il cambio per Gianni il Profeta, comandante della stazione di Sassari, vai. No, comandante troppo, al limite il titolo che mi si può segnare è capotreno. Sì, ma un capotreno lo fai tu come Boccadaretto, però. Oi. Stanno facendo ancora i lavori, ci sono ancora i pullman che si fermano sotto casa, quelli sostitutivi, dai. E niente, quindi gente ammassata lì sotto al cortile, e poi ci sono quelli sporcaccioni, i ragani rampurati la birra, succo di frutta, bottiglie d'acqua, busce di patatine e cantaccio. Oh, e baccari, dai. I vandali ci sono sempre, caro Gianni, purtroppo è così, gappa. Vediamo se è rientrato Genio, vai. No, Genio si è allontanato, vai Tore, che sei quello che ha parlato di meno, poi gira per Carlo. Intanto Gianni Doppio Rumo si sta preparando per andare alla festa. Sì, lascialo andare, che se no da voi Rugani ce la fa la festa, gli fa. Andiamo avanti, Carlo, qua stai girando il sugo, cazzo, chi è, tra chi è, se si comprende più nulla, no? Ho già, riprendo io, là. Ho già, mi ha detto che mi senti basso il radio, lo sai che c'ho quello di congetto di microfono, se non riesco a trovare uno, non piace un proprio più cazzo, una volta c'erano questi qua che non facevano, questi c'erano gli stessi, se non mettono i sugo, allora dove su, io ho un cazzo da parecchio direttamente, c'ho due microfoni, c'ho due giocattolini, stavo anche preso un proprio più cazzo, ma quando non piace poi fa casino, perché niente, che è stato collegato male. Ehi, te l'ho detto io che microfono prenderti, ti ho dato anche la marca, te lo ordini da internet e sicuramente va bene per quell'apparato, tu lo piazzi come ho fatto io, l'ho ordinato, piazzato senza toccarlo da me. Ma mi stai dicendo che c'è già l'attacco predisposto per questo? Perché il problema è poi fare collegamenti se ti arriva senza gente, senza... Guarda, forse Gianni sta riferendo al KPO, guarda, lo trovi su eBay, 38 euro più 7 di spedizione, già cablato. Poi una volta che lo ordini, mandi la mail e gli dici che tipo di radio hai, e loro te lo fanno avere già con lo spinotto predisposto. Se così va bene, perché il problema è che me l'hanno dato, mi dico, la sequenza, di cosa, che con frequenza me l'ho dato in questo caso. Me l'ho anche collegato, però quando sono arrivato alla sera fa un casino, se dai c'è un parato di fagioli che mi sta bollendo, e dunque l'ho messo via, questo è chiaramente un microfono così, un poco conto, dai. Bruno, ci sono microfoni, questo KPO è quello che hanno fatto, è migliore che c'è adesso di microfoni da palco, per il momento c'ha delle recensioni buonissime. L'altro giorno ho frugato l'altro garage cercando il toccare, cercando la fagnetta, e non ho trovato niente, chissà che se ne ha fatto tutta la roba di arrivo. Oh Bru, non è il microfono che c'è basso, sei tu che parli a voce bassa, se tu alzi un po' la voce magari, io poco fa ti ho sentito molto bassa, adesso ti sto sentendo bene, quindi vuol dire che tu ti hai allontanato troppo il microfono dalla bocca. Ehi, vabbè, ma come fai? Stai parlando normalmente, mi devo pulire a pezzi via, così meglio va. si scassava anche il microfono. Con il balmezzo, certo, però non devi gridare, devi avvicinarti solo il microfono. Profeta! Eccomi, guarda, per Bruno io ho un M95 della ZG, quello grigio topo col tasto giallo, feo i grilloni, però funziona abbastanza bene. Ma se c'è il gatto non va bene il topo. Se vuoi io ho un DM1000. Ma cosa ti ho io? Adesso non ce l'ho qua vicino. Vedo però la... Sì, come fare il nostro giallo, quel sole giallo forse, non mi ricordo, non l'ho lavato con l'amico, non l'ho veduto l'amico frequente. Certo, ma 30 euro. Non mi ricordo, ma non è il discorso del prezzo, io voglio un microfono che funzioni. A me non mi frega niente se costa 30, 50, io voglio fare sentire un pochino, ragazzi. Il DM1000 funziona bene, ce l'avevo io, era allineato al Superstar del 2009, quando usavo il furgone. Sì, sì, hai una bomba. Ma un attimo, per vedere come si chiama. Ah, questo è l'Intec. Cosa poi un altro a casa? Un altro... Che colore è migliore anche se? Questo è un microfono un po' difettoso. L'altro è... Non mi ricordo che marca è. E questo era un vecchio nuovo che non avevo mai usato. Era una scarpa, ma me l'avevo venduto. Anche una cifra onesta, 50 euro. Ma non è neanche per quello. Se non ho antenna buona a casa, se no avrei comprato una palla che video comanda. E che poi arriverò a quello, perché sto pensando di mettere per lo regge quella boomerang che ho comprato da Fusaro, quella da 3 metri, e se mi mantiene un linea retto, a quel punto cambio la apparecchiatura, metto una apparecchiatura come Dio comanda, è quello che usate voi più o meno là. 100 watt tiene la boomerang blu, quindi non hai problemi, va benissimo, la grande. Sto corteggiando, se mi avessi un po' le molla, no? C'è Franco che ha un bel apparecchio, va bello, spara anche perché io non lo sento, solo se non ne vuole sentire, ne vuole dare un altro che però io non sono convinto. Ma Franco chi fa? California? Sì, che macchina c'ha? Ah, quelle per la macchina? No, per casa, per la macchina ne ho già due o tre, ne ho due in garage, uno a casa, due in macchina, no. Sarà stata un'uscita per fare qualcosa di un pochino più serio, là. Guarda Carlo c'è una boomerang bellissima che arriva da tutte le parti, messa nel fagiolo ed anche in mezzo ai palazzi, e tu sei molto più aperto di lui, capito, lì vicino a Gianni. Una radioserie a casa, senza molte cose, arriva da tutte le parti. Franco già c'ha il C80, che gli ho dato io, lui già c'ha il Magnum, poi c'ha la 48, e lì c'ha 3 o 4 baracchini, e quella buona, quelle buone sono il Magnum e il C80. Non so che radio stai corteggiando, comunque sono radio buone quelle. Quel C80, quello credo che sia quello che ho detto io. E ci conosciamo da ragazzi. Io lo conosco da quando è nato. Abitava vicino di casa, poi ho stato fratello per cui. E ci siamo visti tutta la vita. Dunque abbiamo un po' di confidenza, ma la casa tua è la caricatura. Gianni, sono là, io vi saluto tutti cordialmente, sto uscendo, là. Ci sentiamo, buona serata a tutti e buona continuazione di queste ore. Ciao a tutti. Ciao Gianni, dai, ci aggiorniamo. Blu, non lo so, è molto affezionata quella radio, l'ho fatta avere io tanti anni fa, è molto affezionato, non lo so, però se riesci a far trovare quella la signora radio. Avanti e... porca mia, me lo ricordo. No, riprendi tu e fai girare, arrivo subito lei. Ciao Gianni, ci risentiamo alle prossime. Sì. Sì, piccolo e basso, ma ci siamo sempre. Ma l'altro giorno ci siamo visti, con Franco. Siamo messi d'accordo, questi giorni ci vediamo, dovevo chiamare, mi danno la piazzata nuovamente l'antenna perché l'avevo tolta, e a questo lato del nostro balcone. A quel punto mi devo venire a letto, se riesco continuo a fare più il possibile, perché sono anche stupido di stare subito in macchina, sono buttato in macchina in una campagna, mi cazzo di piedi. Mettitelo a casa Bruno, dai, coraggio, e tanto ci sono mille antenne buone che puoi mettere. Se prendi una boomerang come quella che c'ho io, e almeno stai comodo a casa e non stai in macchina. Sì, ma io l'ho comprata, cioè l'avevo piazzata sul balcone, è una boomerang, quella da 3 metri, quella che mi ha dato Cusaro, però l'ho tolta perché intanto era inutile, il baracchino è sempre uno di quei universali da 5 parti che come cosa lo sto usando non serve al basso, dunque se piazzo l'antenna nuovamente lì con un piccolo minaretto, a questo punto mi compro la parecchio come Dio comanda. Ricordati Bruno che fa tutto l'antenna, se hai l'antenna buona arrivi dove vuoi, ricordatelo, non c'è niente il baracchino. Lo so, non ha neanche un baracchino decente. Ho visto che ha un baracchino, almeno un microfono come Dio comanda, io mi sento molto bene, mi sento tutti bene. Purtroppo io non ho più niente, una volta ho già dato il tasto, ma più di 30 anni l'ho bollato tutto. Ho sbagliato a dare la mia IESI perché non mi dava fastidio, avevo l'FL50B, è stato 30 anni buttato in soffitta, poi un giorno ho dato un titolo, gli ho dato a gratis, gli ho proprio regalato, ho dato la direttiva, ho dato tutto, ormai non entravo più in frequenza, non mi interessava. Lui adesso ultimamente ho trovato gli amici, ho detto no. Mai buttare via niente, poi le passioni, le vecchie passioni ritornano sempre prima o poi. Ma io poi da ragazzino, perché io sono entrato in frequenza nei primi anni 70, tramite mio cognato un vecchio CD, e poi sono rimasto. Per cui io ero minorenne, figurati che la concessione, allora c'era la concessione dalla Cina, era il nome di mio padre, io ero proprio minorenne allora, dunque stiamo parlando di tanto e tanto, sono stati tanti anni ma poi sai cosa succede, volle tutto in città, non facevi niente, avevo una direttiva omnidirezionale che avevo successo lì al monte, poi al monte ero, avevo parlato di 5 piani e avevo tutto libero, io al monte sparavo che avevo la bellezza, ho avuto una supervenge, buscati, ma poi sentire così, però poi niente, non succede, volle tutto, anche perché a quei tempi non si fa il certo periodo, non si poteva più fare frequenza, perché contanti, casino, e 50 persone che chiedevano di entrare in frequenza, perché allora facevi ruota, voi diamo sapete, qualcuno di voi ha dovuto stare mezz'ora per riuscire a parlare, allora c'erano contanti, poi c'era Sudastore, poi c'era Rosa Verde, poi c'era tutte quelle persone che è stato un malincuoio. Sì, so come era qua a Sassari, qualcosa sentivo, io ero in un altro QTH e qualcuno di Sassari lo sentivo anche davvero prima. E va bene, dai, è importante che ogni tanto qualcuno si affacci e qualche piccola ruota come stasera riusciamo a farla, dai. Riprendi Tore? Sì, riprendo e chiudo anche. Dai, ci risentiamo alle prossime, ci risentiamo, che mi sono meglio. Ci risentiamo alle prossime, ciao Bruno, ciao Porto Torres, ciao. Fatti quanti, non mi metto più il nome. Vabbè, fare alle prossime, ci risentiamo. Ciao a tutti. Ciao Tore, alle prossime. Ciao Tu, ci sentiamo alle prossime, dai, buona cena, buon tutto, ci vediamo, anzi, ci chiediamo tutto se coincide. Ciao. Ciao Tore, buona serata e buona carica. Ciao Tore, devo chiederti se per caso non mi sentito Gio Maria, che non ho sentito, vabbè. Non l'ho più sentito, non l'ho più sentito, mi giocano il mio telefono qualche giorno e se lo chiamo a vedere se sta bene, se sta male, io non ho più il telefono, se c'è la possibilità chiamalo, gli fai sapere, porca miseria. e noi ci conosciamo la vecchia data, lui è uno di quelli. Come fatti? Alla prossima! La chiamo, è vero! Ok, ciao a tutti quanti, statemi bene! Ciao! Oh, Rubro 3, ho cambiato molto! Babà! Infatti se faccia buco volevo vendersi trattative in privato, e beh, venduterai. No, però ne ho già un'altra. Sono passato a miglior vita. Ma sei per HD? No. Da ficatù l'ho preso. Io ho un Vespone, ti interessa? Mi ha buttato, ma cosa, l'ultima, il 1100? Ho preso, l'Adventure Sport. Mi sto trovando molto bene. Il Vespone l'ho venduto 2 mesi fa. Ce l'avevo io, il Pix. L'ho venduto al padrone del carnettiere di Sassari. A me serve il Vespone, datemi il Vespone, aiuto. A me serve una Vespa, femmina. Io avevo venduto il Vespone da poco, non ho sentito. Adesso devo rinnovare la testa, non lo posso fare che non si va molto. Allora, a me mi hanno fermato, me lo volevano sequestrare. Attenzione, perché non possono più viaggiare. Capito? Questi mezzi degli anni 80, così non possono più viaggiare a miscela, attenzione. Anche se sono marchiati ASI, possono viaggiare solo se devono andare a un raduno riconosciuto ASI. Attenzione. Io però ancora non c'è niente, dai. Stanno proponendo, facendo, ma non credo che ci sia niente. Io sono qualche anno fuori, ma per 40 anni ho fatto quel lavoro, ho lavorato con le moto, con le omologazioni e con le matricole, per cui diciamo che sono da qualche anno fuori dall'ufficio, però non ho sentito perché abbiamo già fatto la legge, capisci? No, la legge c'è, qua in Sardegna chiudo gli occhi perché non mi frega niente, però già c'è la legge, perché a me il poliziotto è stato chiarissimo, me lo volevo apprendere, ho trovato proprio quello pignolo, però la legge c'è. Siamo in ufficio, controllo, io faccio la pensione, non sono più aggiornato, ma diciamo che il mio lavoro era proprio quello. Per cui sono in difficoltà, controllo, ma diciamo che... Non lo so, vediamo un po' adesso, poi quando ci fanno scuole, qualcuno già ne sa più di più, sono su da qualche anno. Bru, io ti ho perso, ti ho proprio perso, non riesco più a sentirti. Comunque, Gianni, sì, il 1100, l'Adventure Sports, ho preso. Gatta, proprio hai chiamato Barrocchia. Aspetta che c'è Bulldozer, avanti a vedere cosa ne dice anche lui. Sì, ciao B2, ciao Lunga Fetta, l'altro non riesco a capire chi è là. Bruno in barra mobile. Ma facendo il mio caso, pronto, mi sentirete un po' malato. Cappa Blio, ciao Bruno, buonasera, ben ascoltato. Ciao Lunga Fetta e ciao B2. Ciao Massimiliano, Carlo. Come? Carlo. Ah, ciao Carlo, anche a te dai, scusa, non ho fatto ascolto. Io adesso sto entrando di nuovo a salutarti, però chiudo che mi devo preparare la cena perché domani mi alzo presto. Buonasera a tutti, grazie del QSO, ciao Gianni, Rubroffetta, Eugenio, Bruno, Massimiliano di nuovo e tutti gli altri che stanno ascoltando, ce la risentiamo. Ciao Carlo, buonasera, buona continuazione di serata. Ci sentiamo le prossime, dai, vai Robloffè. Veia, ciao Carlo, fai la bravo e non ti ingolfare troppo, sennò lo dromi. Oh, yeah. Avanti genio. Veia, ciao Carlo, ci sentiamo tutto le prossime. Ciao. Comunque, al posto di Eugenio, si può chiamare genio al posto di Ghizzo B2. Infatti lo chiamo genio. Oh, yeah. Hai capito, è passato la trasponda. Oh, no, comunque dai, ho un amico, un conoscente che c'era bianca, rossa e blu ed è assolutamente entusiasta. Vabbè, è un'altra barrocchia, un altro tipo di moto. Vai, sono contento, dai, che poi hai cambiato filosofia, l'importante è stare sulle due ruote, dai. Avevo necessità di cambiare guida. proprio avevo necessità di cambiare guida, sai, quando te ne scendi dalla moto e dici no, stavo perdendo l'entusiasmo di salire sulla motocicletta, capito? Questo ha sordinato, vabbè, tutto lascia molto, critica, freni, tutto lascia il gozzo, però eccezionale. Vabbè, quando si ferma lo semaforo, appoggiare i piedi in terra a Mugliri, e dopo, Oh, yeah. Una bella motoretta, dai. Adesso questo è... non mi viene il termine, c'è un termine specifico che le identifica. Vai, pieno di chi si... comunque, dai. È stata una bella scelta, dai. Anche già se io appartenevo, vabbè, col cuore appartengo ancora a un'altra parrocchia, comunque è una bella motoretta, dai. Oh, io non la rinego, l'Harley, per carità, non la rinego, non l'ho avuta per 30 anni. Eccolo, sono le cose, piano piano. Dai, bisogna provare anche altre esperienze, poi magari chissà, più là ritornerò all'Arle, ce l'ho sempre comunque. Oh raga, perdonate, io mi sono dovuto allontanare, ho ricevuto la chiamata e così vi saluto che sono già le 8:15. Eugenio, favola, ciao, benissimo, tutto a posto. A proposito, domanda, ti sei accorto, senti il rumore se la ventola è partita, sta partendo, sta funzionando? Ma sei con me? Sì, comandante, ce l'ho con lei. Metti l'orecchio, guarda se la ventola è in funzione, che è la temperatura della radio, dammi qualche informazione. Ma io ventola non è senso, aspetta un attimo. Sì, si sente. Esatto, bravissimo, vedi che ce la senti allora, con quell'orecchio che c'è mezzo sordo. Va bene, un abbraccio a tutti circolarmente, a chi non mi mette più caffè. Mi allontano la radio che passa in cucina. Ok, comunque saluto Gianni, Tore, Bruno, Carlo, l'altro Gianni, insomma tutti, Eugenio e compagnia la cantante. Un abbraccio a tutti, mi allontano, ci sentiamo alle prossime, ciao. Allora, anche io sto chiudendo perché sono arrivato sulla radio, però non mi sento più. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao Bru, ciao. E oggi se non senti la ventola, occhio che bruci tutto lì, ventola rumorosa. Guiupa. No, ma la ventola l'ho sentita, sta girando così. La ventola l'ha sentita, sta girando, sentito? Sì, sì, ventola rumorosa, l'ha sostituita. Sentito, ma così tardi c'è la ventola, se ti muove un capo già intendi. Va bene ragazzi, ciao anche a Max allora, dai, un abbraccio a tutti e ci sei, che battuta la sì, questa sta girando lo stesso. Va bene, ci sentiamo ragazzi. Ciao a tutti che mi sposto in cucina. Vai Massimiliano. Ehi, ciao quello lì. Buonasera, buon tutto. Grazie di avermi rilanciato perché anche io mollo e vado giù a mangiarmi il coniglietto nel mio cucinato là. Saluto a tutti cordialmente, fiago di fava, a manetta. Ci sentiamo, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ehi, dai, mi aggrego anch'io, vi saluto, grazie alla chiacchierata, un saluto a tutta la truppa, ok? Fate da bravi, non vi ingolfate troppo, ok? Ciao Genio e tutta la compagnia, Carlo, Claudio, Massi e tutti gli altri, dai, ok, un salutone da parte mia, capostazione vi saluta e ci sentiamo nei prossimi. Beh, di fava. Ciao Luca, Antonio Bobo, aspetta un attimo, Bombolo, ma Massimiliano, non mi hai detto se sto arrivando bene come segnale a te? Guarda. Come tu da me, perfetto. 9:10, il tuo segnale, Radio 5, è perfetta. Va bene, vai a mangiare la fava, dai. Ciao ragazzi, saluti a Valle, a tutti quanti, niente. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao, buona serata. Massimiliano! Dimmela, dai che sto chiudendo, non tu. Ciao, ciao. Ti sentiamo, fiago di fava, ciao ciao a tutti.